Prova. Buon Bruniu. Eia. Vabbè, come va? Adesso è diversa la cosa. Meglio è? Sì, più squillante. Idea a metà. Stai scendendo molto, ma molto meglio, ma molto meglio dell'altra volta. Guarda un momento a vedere. Guarda, 6, 7, 8, 9 e 10. Guarda un po'. Sì, già va bene, però c'hai le scale, che cosa stai toccando il filo? Il burro lo so, cazzo stavo toccando. Ma stavi toccando il tasto? No, stavo toccando la carcassa, stavo toccando, mi adesso non sto toccando nulla. Guarda un po'. Già va meglio comunque, se stai ma va meglio perché come ce l'hai aperto sto facendo scarica. Mettici il cotone intorno e lo lascio al centro la capsula. Sì, l'ho fatto. Adesso già va bene, non hai più scarica. Forse stavo toccando la carcassa del microfono, forse ci vuole la massa. No, la massa non ce ne vuole, non ce l'ho messa manco io. Quindi non ti preoccupare, massa lo venivo. Una volta che stacchi quella la capsula, gliela metti un'altra, gli metti il cotone intorno e è a posto. Io avevo fatto così nel mio microfono. Io gli ho messo quella piccolina che c'era nella cornetta del telefono. Quella lì già va bene, anzi è molto meglio di quella originale. Quella originale proprio non serve un tubo. Anch'io avevo cambiato la capsula, quando l'ho comprato non amplificavo l'accidente, poi avevo installato un'altra capsula diversa e pompava. Senta, un po' quanto sia chiara la radio, va? Ha voglia che è chiara. Ma manco non tengo quel microfono in mano, mamma mia. Se no, come l'allontanavo poco dalla bocca, non si sentiva più. No, adesso stai andando bene, sei perfetto. Hai fatto un bel lavoro. E via, andrà bene meda, va. Si sente anche qualcuno facendo piatti dietro, cosa sta toccando? Mia moglie in cucina è però, non è qua. Capito, è sensibile. Sì, si sente che sta facendo i piatti, te lo sono presente. Parla con te a vedere, magari mi supera di modulazione. Ciao Concetta, tutto a posto? Chi l'hai da intendi? Sì, già non credo che sia stato a lei. Vabbè, lo lascio ammettando, allora. Sì, puoi lasciarlo anche a Manetta, volendo quel microfono, eccetera. Non è che disturbi la televisione, no? Non penso. Ah, non è solo io. Lo lascio ammettando, no? Io stai uscendo bene, sei perfetto adesso. A voglia. Chiara gara. Grappa brioche, diceva quello. Eia, eia. Poi puoi anche mettere la portante pizza volendo, con questo. E poi la chiudi quando finisci di parlare. Sì, allora l'ho avuto anch'io, l'MP4. L'ha comprato cosa, ce l'ha preso. Stavo in California, quello mio, 40 euro. Quanto l'ho pagato io, gli ho dato. E allora nuovo, mi avevo usato le scatole e tutto, gli ho dato. Adesso poi non so se quella roba lì se l'ha presa l'altro giorno, quando ti ha telefonato. No, negativo, la garugantaro, perché non si è fatto più sentire. Ah, mi ha telefonato stamattina per mettersi a posto l'FM500S, cioè lo Smith ci voleva, dove passava la fusata se c'era, e così glielo mettevo nuovo, e invece non si è visto. Dice, ci vediamo dopo, mi ha detto, vabbè. Allora, saremo un paio di anni senza sentirlo. Ah, magari già sarà a casa, che adesso c'è un bazooka, solo che i bazooka vogliono smontarsi, perché hanno quel filo fine, ci vuole il cavolo normale, da uno, capito? Misurato 5,50 m, messo dentro, poi agganciata la massa, e con la staffa e già esce la bazooka, non è che non esca, io l'ho avuta e ce l'ho nella barca di cosa? Ce l'ho di Nicco, ce l'ho regalata a Nicco, ho detto che fa stare in barca, almeno esci dalla barca, e poi gli avevo regalato anche l'antenna per la barca che mi avevo regalato a me. Gliel'ho piazzata, solo che la barca non la usa mai. E il tempo ci vuole per quelle cose. Lo so che ci vuole tempo, infatti la giornata in Kiwi. Ma col mio fondo non sta più entrando, Bobo. Ho chiamato l'altro giorno, sono andato alle poste. E poi si scendeva giù a me, c'era un qualcosa, mi ha detto che a casa non avevo voglia e basta. E tu vabbè, fa come vuoi, e tu io mi sono andato dietro le barche, quello che c'è vicino a casa tua, e dopo prendo il tavolo e saluto a casa. Infatti così ho fatto. Mi sono salito a casa e sono rimasto qua. Gara. Non mi ricordo, sempre a me non mi finisce uno, cioè non si trova nessuno ancora, boh. Magari stanno facendo cosa. Io te l'ho detto. Sono acceso tutti e due. No, ce l'ho sempre acceso io. Nel caso qualcuno chiama, già li rispondeggio. In PMR. Di solito quando esco me lo porto appresso. Anche perché così per farmi compagnia più che altro. Uno vabbè, il telefono già ne ho due, nel caso si scarica uno, io c'ho l'altro. Gara gara. Ciucu ciucu ciucu ciucu. Domani devo andare a lì, devo andare a fare la... Non ho capito, vai, è l'Inps, eh? È la visita della pensione, sai che me la... Ah, quello sì, eh. Lì alla fai a medico legale. È tranquillo, preparati, perché c'è gente sorta lì, eh. Sa per rispondere immediatamente. Perché ti prendono una cosa, ti prendono, capito? Come ha fatto Gian Piero. Dice, si alzi, l'ha detto. E lui ha risposto, se sono un anno che non mi alzo. E come va a pisciare? E secondo me non lo vedi il cazzetto, gli ha detto. Io non ne ho di quei problemi. Sono i certificati medici fatti il giorno 6. Capito? 4 giorni fa. Che comunque dico che non stai bene, eccetera, eccetera. Perché tanto te lo chiedo, come si sente? Si sente bene? Se tu dici sì sì mi sento benissimo, sono a posto, sono rinato, allora sento tutto, invece lui dice no, sono sempre, anzi qualche volta anche peggio, lui dice, perché mi viene mal di petto e ho sempre paura, dici, capito? Poi lo sai, quello che c'è tu soffri anche d'angina, quindi l'angina non sparisce così. Esatto, e via. Vediamo un po', va. Domani uno di guardarmi qui. Tanto io guardire non posso da quello che ho. Magari. Sì, vabbè, guarda che anche Battistino non ha la stessa indica cosa, eh. Anche Battistino l'hanno aperto tipo il maialetto. E anche a un altro l'ha aperto così, che conosco io. Che non ci aveva mai avuto niente in vita sua. Un giorno ha avuto un dolore, ha preso e in presa è andato a posto soccorso. Da lì hanno ricoverato, urgentemente l'hanno aperto al centro, gli hanno tolto una vena dal braccio e gliel'hanno messa all'interno. Capito? Esatto, i bypass gli hanno fatto, se gli hanno tolto un coso e gliel'hanno messa di là. E quindi sta pigliando pastiglie, eccetera, eccetera. Però lavora lo stesso. Non lavora più come prima, perché lavora anche al posto suo, però lui è molto più tranquillo, non ne fa più sforzi. Prima faceva gli sforzi, sollevava i cancelli, roba del genere, gli sforzi che ti crepano me. Lo so, no. Non puoi fare nulla. Di Battistino già mi dispiace, non ne sapevo che ha avuto l'impatto. Sì, Battistino ce l'ha avuto già da 2 anni, figurati. E adesso non sta più facendo nessun lavoro. dire che la pensione, meno male, con quei 300 euro più quello che magari ti dà un po' il comune, e il lavoro della fidanzata. Già si danno una mano alla vicenda, non è che quello il problema. Importa che lui sia sereno e tranquillo. Vabbè, aspetta che lo dica mia moglie. Figlia. Antone. Dimmi tutto. La conoscevo anche mia moglie, perché è venuta da lontano. Sì, già lo so già. A voglia. Stavo uscendo e come stavo uscendo, va. lasciato un po' di scarichette, forse sul PTT, non lo so, un po' di... Scariche, oh. Appena appena, sul PTT credo. Antonio, cosa ne dici? No, c'era la capsula poco fa che l'aveva cambiata, forse come muove lui il microfono, la capsula magari balla lento, che ci vuole il cottone intorno, ci vuole. Ho messo il cottone, la capsula gliel'ho sostituito, gli ho messo quella del telefono. E allora magari vuoi PTT come schiacci tu. Gli ho messo anche il, come si chiama, quello spray per contatti. Quindi adesso non te l'ha fatto, adesso va bene. A volte lo fa, a volte no. Io magari non lo schiaccio bene, forse non lo schiaccio bene e fare... cosa si può dire, le scale. Fa le scalimucce, fa. Speriamo che sta bene questa cosa. Sì, per adesso va bene. Sì, però tutto quanto ha perso, figura. Eiaia, io mi stavo mangiando budino adesso, perché pranzate pranziamo un po' più tardi, fra un'oretta che ne so, forse anche più tardi. E va bene, e beh, come va qua? Siete modulando, non siete modulando? È un mortuzio. Oh, e vabbè, ma aggiornate, dai. La giornata, caspita che bel sole che c'era oggi, veramente una bellissima giornata. Penso che me l'ho messo nel pomeriggio dietro la finestra, insomma verso il sole, col vetro, con la finestra chiusa attraverso il vetro. Entrava il sole e mi stavo scaldando attraverso il vetro. È molto molto bello il sole di oggi, dai. Facendo cosa? Adesso domani alle 8:30 devo essere a lì per quella visita. Eia, mamma mia, sempre orari allucinanti di danno. Troia, Antonello, tu sei che mi capisci. Eia, ti capisco. Guarda che sto vedendo baracchini, che idea che può interessare? Vabbè, a nessuno interessa, non te le chiedere anche. E che pare? Che parte stai vendendo? Se tipo 2009, perché ci è rimasto, poi cosa ti è rimasto di altro? Qualche altro 40 canali? Mi chiedo se qualcuno interessa un baracchino. No, no, sono tutti baracchini 26, 30 MHz, AMFM bande laterali, 400 canali, di ultima generazione. Uno è il CRT 7009, l'altro è l'Intec HR 5005. Completi, e c'hanno eco, autoascolto, tutto c'hanno. E come quello che avevo io prima, là, che poi ho dato a cosa? Tipo il magno, mi male. No, no, non tipo il magno, ma hanno un aspetto più, sai, col display digitale, con la crossmitter digitale, capito? Di quella serie lì. Funzionano bene, niente da dire. Poi gli ho alzato già il trimmer della modulazione, quindi escono pure bene in AM. Cioè escono bene anche in AM adesso, capito? Già va bene, se che caso qualcuno me lo chiede. Forse che non c'è commercio, vai a vendere, non riesci mai a vendere un baracchino, magari quando l'hai venduto potevi dirlo a me, ti dico. L'altro giorno quando ti ho chiamato, sono passato da cosa, da figlio di Prosper, sono passato lì in negozio e lui non c'era, ti ho telefonato, ma la roba che diceva tuo padre, tutta quella roba di rematture, che fine le ha fatto fare? Cioè, ci ho buttato tutto, Antonio, dice, potevi dirmelo, cosa ne sapevo? Io sono venuto adesso per non disturbarti più che altro, perché era molto tuo padre, quindi ho lasciato scorrere un po', pensavo che l'avevi conservati. E se non te ne facevi niente, me l'avevi preso io, te l'avevi pagati naturalmente. Dice no, in realtà ci ho buttato tutto. C'aveva due linee complete, c'aveva. Modello vecchio, ma erano due linee complete. Stava fatto tutto. Cheese. Lascio. A non saperlo prima, andare con le buste. Ma perché è uno spreco così, dai. Capito? Vabbè, non faccio battute razziali, se no. Sì, vabbè, lo spreco sì. Se avessi saputo che ci sei andato me lo sarei fatto male. Tanto lui non se ne faceva nulla, quella delle valdia, non ne capisci nulla di quella roba lì. Però vabbè, l'altro. Però ci verrebbe anche regalate per dire portate via, basta che me tu dia in mezzo ai giri. E invece per non disturbare, capito, per non essere tipo quei caimani quando muore qualcuno andare subito a chiedere la roba, non mi sono, diciamo la vergogna, non mi sono presentato. Ma adesso voi siete stato un po' tutto, basta, non c'è più niente, quella roba lì, ha pulito tutto il laboratorio, tutti quei televisori anche lui che c'aveva, eccetera, eccetera. Anche lui ha fatto dei viaggi lì e la Mondezza, e lì ci hanno goduto cose, ci hanno goduto. Mi ci ha chiamato l'impresa di, come si dice, Savoni, capito? Ha preso, siamo lampato tutto, se l'ha fatto. Invece dobbiamo andare lì, condoglianze per tuo padre, così colà, si diceva, portati via tutto magari, come fanno molti, capito? Come fanno... Qualche radiatore forse l'ha fatto. Signora, condoglianze. Io ce ne sono stati, che sono appena morto, dopo due giorni sono andati a chiedere la roba. Io non so anch'io. Non sono di quelli, io no. Vabbè, no, oh, tu vai per le condoglianze. Poi se te l'offre lì la roba, portatevi via tutto. Tu se non puoi portarle... Chiami un amico con la macchina, carichi tutto e porti via tutto. Mamma mia. Se mi avrebbe detto una cosa del genere, avrei subito chiamato qualcuno e me la sarei caricata in macchina, ma siccome non sono di quelli, e se è passato più di un anno da quando è morto, figurati. Eia. Natalino, io facci sentire questo microfono. Io faccio sentire questo microfono. Va bene, nera. Solo che appena lo muovi, non lo so se tiri il cavo o prendi il PTT, sento non vedi rumori. Io non so cosa fare. Eia. E io, Natali, sto cercando di svendere... No, svendere no. Manco per le balle. Diciamo di vendere qualcosa. L'ho messo su forum. Se si vende bene, se no pazienza. Sì, stai facendo la cartellista. Eia. E troppa roba ho... Troppi baracchini acquistati, anzi certi li ho, uno l'avrò dato a te, cioè uno venduto, uno dato. A Pompone le avrò regalato il Conas 4000 Eco, a un'altra persona le avrò regalato un 40 canali omologato, e un po' così bisogna farla fuori la roba. Uno l'ho venduto 50 euro l'altro giorno, un 40 canali, 120 canali anzi, a MFM. È come il 48, come l'Alan 48 vecchio. Bisogna far fuori la roba, se no. Ti ho detto, mi tengo solo il 2-3009 se devo entrare, se no non entro nemmeno. Lo sai che certe volte non accendo nemmeno. Secondo me, cazzo, quattro chiacchiere ce le potevo fare. Se no, ognuno va di più e la pensa di più, e dicono quelli del canale 23. Vabbè, ma non è nemmeno che dobbiamo fare le gare, no? Che modula di più? Pomponia, io se non lo usi questo digitale, regalalo a me. Io ti ho fatto un regalo a te, tu lo fai a me. Ce l'ho in scatola, lo sai, l'ho acceso stasera. Tu figurati, non mi ricordavo manco più come cavolo si faceva per metterlo in analogico. E quindi l'ho usato stasera. Stanotte lo usiamo. Il digitale, voglio farmi una cena merdata, ver se funziona ancora. Ho visto che in analogico funziona bene, quindi. Ma tu lo sai che io la notte non entro più. Io alle 8, quando sono qui alle 8 per mezza vado via. mi voglio vedere il film, mi voglio rilassare. Ti ho detto, se non lo usi o me lo vendi, ci siamo mettiamo d'accordo per il prezzo, o me lo regali. Vediamo in futuro cosa ne esce. Ah, sento, ritorno, che cosa? Ma cosa cazzo tu, vabbè, se tu me l'hai regalato per il giorno del compleanno mio, ce l'ha fatta a rivendere, se così matto. Se non lo usa, te lo do, non mi interessa niente, almeno li usi tu. Lo usi uno, tu uno, tua madre. E così parlate direttamente alla casa. E l'idea era quella, capito? Lei con l'antenna qui, io quando esco ogni tanto la chiamo da fuori, anziché usare il cellulare. Vabbè, vediamo, dai. Caro Natalino, caro Natalino, punto. Appunto, a un certo punto, l'appunto. A proposito, Natali, i fari li avevi cambiati? Sì, già li ho fatti girare e fissare, sono nuovi nuovi. Oh, e chi è che aveva detto che non si lucidavano più, che la parabola era rovinata? Un coglione. Per farti spendere, per farti comprare dei fari nuovi magari. Oi oi, ma la parabola quindi l'hai salvata, i vetri sono stati lucidati, così è? Lucidati e vernicciati, voglio, perché se tu non li vernici ti durano da macca a tantissima. Doveva comprare il trasparente, capito? Ah, ecco, ci vuole una specie di trasparente per proteggere il vetro dall'ingiallimento, dall'opacizzazione. L'ho portata al carrozzere, la macchina me l'ha fatta. Dove sei andato? Ah, vabbè. Me l'aspettavo. Molti CB vanno lì perché lo conoscono. Bene, bene, bene, bene. E io, Antonio, cosa ci racconti? Niente, mi sono preso due carte l'altro giorno. Sim, cosa è mobile? Mettiamo su fuori di essere, cioè Vodafone Simona, ogni volta caricava 10-20 euro, se li mangiava 2 secondi, allora sono andato lì, siccome era periodo di promozione fino a oggi, 2 simi 22 euro, 12 euro l'una, a 10 ogni mese, una l'ho messa nel telefonino d'azione e l'altra me l'ho lasciato nel regia, poi l'altra cosa nel telefonino, nel tasso che ho comprato a Simona al Conad, e quindi almeno sono a posto. In pratica io con il telefonino d'azione non spendo manco una lira con Simona, nulla, proprio niente, posso stare anche ore e ore che non spendo una lira. Ehi, ehi, non so come funzioni. Va bene, noi lo usiamo poco proprio per non... perché è inutile prendere quelle offerte, no? A me non piacciono le offerte, 1000 ore, cioè paghi un fisso al mese e puoi stare 1000 ore al telefono. Ma io il telefono lo uso proprio per necessità, non per fesserie. Quindi io ci carico, che ne so, 5-10 euro a settimana. No, cosa sto dicendo? Certe volte 10 euro al mese ci metto e mi durano tutto il mese questi 10 euro. Lì va a scalare, no? Certo, le pago le telefonate, ma per quanto poco ne faccio. Invece chi ha necessità o per lavoro o per altre cose si fa quel fisso, paga un fisso mensile e c'ha minuti limitati, chiamate limitate. Già lo so, adesso lo sai a 28 giorni, non è più a 30, quindi ogni 28 giorni bisogna caricare, perché scade ogni 28. Quest'anno cos'è? Bisestile? No, mi pare che abbia 28 giorni in febbraio quest'anno. Ogni tot anni è bisestile, non mi ricordo se è ogni 4 anni o quanto. Ogni 2. Ah, ogni 2, cioè 1-2 bisestile oppure 1-2 al terzo bisestile? Una messina non è. Quest'anno per esempio è di 28. Ah, ecco, ogni un anno sì, un anno no, ho capito. Oi, sono senza soldi, sono disperato. E per modo di dire, perché poi anche quando ho i soldi sono disperato lo stesso, perché non so come spenderli. Ui, non mi ci fate pensare. Non sei solo. Ti puoi far controllare che sei in buona compagnia. E infatti, sto aspettando l'uno per avere una boccata d'aria. Mamma mia, una boccata d'ossigeno. Poi se riesco a vendere qualcosa è già buono. Finalmente Antonio ce ne possiamo andare a pigliarci una pizza noi per conto nostro. Io non la posso prendere adesso. Sto aspettando che arrivi il coso, la carta acquisti, il bancomat, dalle poste. Appena arriva il bancomat, vado lì, come si chiama, in pizzeria e pago col bancomat. E me ne porto le palle. E non penso che valga quella lì. Fare quella dell'Inps, questa non è quella del coso, quella del comune, è quella dell'Inps. E adesso provo a fare l'Inps quando finisco di fare questo Inps, perché sennò anche la pensione non lo spetta, non è uguale, perché fate anche quello di Resi dei 55 anni, tagli di stato già ne è passati, quindi così ti pigli almeno 300 euro in più e sono i tuoi. Esatto, devi andare lì, fai la domanda lì, dopodiché devi aspettare, ti arriva la carta, cioè ti arriva la cartolina dalle poste per andare a ritirarti questa carta acquisti. Sono terminate, me ne sono fatto quattro le poste, tutte quante le hanno già prese, tranne che io. Adesso sto aspettando, vediamo un po', domani, dopodomani, ci vado, se sono arrivate me la ritiro. E tu ce l'hai tirato quelli di marzo, come Giuseppe, sarà uguale. Vediamo che non abbia vendita, perché se mi conta il debito di quando ho lavorato dalla disoccupazione, non me ne danno. Sì, vabbè, penso che non ce l'hai il reddito, è passato un anno che sei disoccupato. Non devi sperare 7.000 euro per avere quello, quindi. Poi già c'hai una persona a casa e siete in due, quindi a un certo punto non è che li superi 7.000 euro. Allora adesso vediamo, non penso a disperarli quest'anno, l'anno scorso sì, ma quest'anno no. Quest'anno già non è realizzato, tanto qua appena fai il foglio mese te lo fai con qualcosa nuovo, un reddito nuovo, quindi il reddito ne avrai molto, molto di meno. Puoi fare tranquillamente la domanda, sei tranquilla, meno quello. Avanti Marco. Riesci a vedere che ore sono 17.44, mi alle 6 tramonta il sole. Si stanno allungando le giornate di nuovo. Prima tramontava alle 5, anche 4 e mezza mi pare era già tramontato, adesso si stanno allungando, 5, 5 e mezza, 6, e vabbè, vediamo, questa primavera, questa estate sarà migliore, se sarà più proficua per il mare. L'anno scorso abbiamo fatto metà di estate e poi siamo stati rintanati in casa perché venivano quelle ondate di caldo, ti ricordi Antonè? Con un'ondata di caldo abbastanza seccante, no? L'ugola si è vista, mi. Cos'è? Fame o non solo uso? No, è fame d'aria questa. Ho capito. Lui, io invece sono lo iatto. Adesso mi sa che me vado a pigliarmi un po' di roba per stanotte a cena. Ho rimangiato carne a pranzo, ma io sono andato a rimangiare carne stanotte. Adesso vedo da me qui piglio il pesce, quello gratinato, per cena. Quello confezionato già, buono. Adesso non l'ho confezionato, è vero. Prima invece no. toglievi la scatola e era già pronto per cucinare, adesso invece è confezionato, evidentemente gli hanno pensato casino, magari no, capito? Adesso c'è la plastica sopra, se piglio quello mangio quello che fa bene il pesce. Io e poi prendiamo un po' di qualcosa per farmi qualche panino, che pane non ne ho, non abbiamo il pane, che me ne sono dimenticato. Sì, comunque, ma gatti lo fa... Chi è? Il gatto? Ma ti strozzare mi mangiando, c'è su, il gatto stava strozzando. E cosa ti volevo dire? Ma chi te lo fa fare a te di andare in via Londra? Ma come si chiama? Via Londra? No, via Verona, a quel, quando ce l'hai vicino, là, Antonè. Guarda, io tutte le volte che sono andato, nessuno mi ha mai risposto male. Lei come se sorridono, cosa ti dica? Io questa maleducazione ancora non l'ho vista, non l'ho sentita nell'Eurospin vicino a te. Certo, se ti risponde male, quelle ti rispondono a tono. No, già sono così, quelle che sono qua, non ti preoccupare. Più che altro ci vado, perché le conoscono un sacco di tempo, quelli di via Verona. E poi... mi trovo bene, poi al ritorno vado, mi bevo una birra da Nico, poi me ne stavo a casa verso le 8:30, di solito faccio così, capito? Così me lo passo un po' d'ora, insomma mi annoio a casa, soltanto dentro a casa mi viene il coso, mi viene. Mi vuoi? Basta venire. Beh, perché no, potrei anche uscire. Tanto Borolis lo danno la replica stanotte in televisione. Devo stare sempre a casa perché mamma mia è allucinante come sto. Vabbè. Chiedo a mamma se c'è qualche spicciolo. Che di venire a sbaffo a me non mi piace. Sì, vabbè, cosa vuoi? Si può sapere cosa vuoi? L'altro giorno hai trombato, che cazzo vuoi da me adesso? Dummi. Madonna, tutta la casa mi ha pisciato l'altra notte, perché è venuta come una cagnetta. Oh, e lui ha rapato, no? Sì, dove pisciava lei, pisciava lui, tutta la cucina mi ha pisciato. Oggi lo stesso, oggi appena l'ho ammazzo, prendo la roba da mangiare in camera a Simona. Cazzo, esco fuori e mi trovo pisciato l'uovo davanti al frigorifero. E io ho detto, uno di questi giorni te la taglio, ho detto. Se non li compri così, via ci sono, gli vendo dei pallolini per i cani, e così glielo metto. Prendono anche lo spray. Ma pulisce poi strutti di dove ha pisciato, così almeno lui non sa niente. E così devo spostarmi tutta la casa, questo pisciani con la porta aperta, ma posso uscire fuori che è pulito. L'ho dentro a casa, capito, che fuori ci sono gli si infresca la piscita. Ma no, questo solo fuori. Io l'ho porto di mattina che si spera, adesso quando torna mia moglie lo porta, perché la mattina lo porto io e la sera mia moglie. Antone, mettili il collare elettrico col telecomando, quando si comporta male, la scarica. E poco fatti male me. C'ho quella fare che usavo i cinesi, quello che usavano i cinesi, ne metto una palla e una all'altra. Quando glielo accendo col telecomando, io comando glielo accendo. Eia. Sì, comunque esistono questi collari, solo che secondo me sono... non è roba da usare, boh. Allora, quello che ho visto io, prima avverte il cane, se il cane fa casino, si allontana, tu prima gli mandi un bip, un segnale sonoro, e lui deve capire che non deve andare oltre, se va oltre è una scintilla singola, bip, tac, ma insomma fa un po' male al collo. Secondo me non è il modo di educare i cani, però li vendono in Italia. Li vendevano anche i cinesi, lo sai, costavano pochissimo. Io io lo volevo comprare per studiare com'era il meccanismo, così lo volevo usare, me lo metto alla caviglia, no? O al collo, così quando bestemmio mamma mi dà la scarica. Figurati, cocco. Nelle palle c'è un rimesso io a te questo. Sì. Non scherzo, mi dovevo pigliare, me lo metto alla caviglia o al collo. Quando mamma mi sente a bestemmiare, preme il pulsante, tac, la scintilla. Mamma mia. Così si educano, capito, i bestemmiatori. Meno male che mia moglie non c'è, se no l'avrebbe comprato. A te lo mette, vi? E appunto perciò. Quando guardi le altre donne, sta, piglia il telecomando, ti fulmina a distanza. Eia. Comunque, quelli italiani costano, beh, 200 euro, 300 euro, ma stanno scherzando. Quelli cinesi costavano 15 euro, no? Nota bene. Quando li ho ordinati dalla Cina, l'ho ordinato una volta e la dogana mi ha detto che è un prodotto che non può essere importato in Italia. Invece non è vero, perché in Italia li vendono anche professionali e me l'hanno spedito indietro. Allora ci ho tentato un'altra volta e la dogana me l'ha intercettato lo stesso. Mi ha mandato lo stesso la seconda lettera dicendo l'apparecchio non può essere importato in Italia, l'hanno rispedito indietro, capito? Due volte ci ho tentato e due volte me l'hanno intercettato. Eppure in Italia li vendono, quelli che cacchio mi stanno a dire? Li vendono proprio italiani dall'Italia. Sì, però vuol dire che quelli cinesi non corrispondono alle caratteristiche di quello italiano, capito? E anche la gente, per quello che l'hanno spedito indietro. Tu muori folgorato. Eia, avevano un telecomandino con l'antennino e così. Poi ho lasciato stare, c'era anche in Francia e dalla Francia arriva senza problemi, non c'è dogana, però non me ne sono fregato, così, per giocare lo volevo, così, capito? Va bene. Adesso sono in ponte, c'è andare da Pomponi oppure no, perché poi non trovo parcheggio. E vediamo tu di parcheggio, basta fare, buttarci via qualche macchina, avete i piedi, la vita. Meno male che io l'ho trovato stamattina al parcheggio, perché l'avevo lì a torto, in fondo. Sono andato a piedi a prendermela la macchina, dovevo comprare cosa. Sono venuto qua e ce n'erano due di parcheggio. L'ho subito parcheggiato, però domani mi potrà mandare via sotto, perché alle 8:30 devo essere. Un bel di rumori fa quel microfono, Nathalie. È una cosa continua. Tutto così. Cosa vuoi che mi sposti? Che lo sposti io questo microfono? Cosa cacchio li posso fare per non fare rumori? Sarà il tasto del PCC rotto, boh. C'è un microfono ubriaco fragico, sto te lo dico io. Lo so, di cosa me la so se già avrà il tasto del PCC messo male, però è sigillato, non li puoi mettere nulla adesso. Mi avete rispettato il CRC nei contatti, dentro, all'interno, a meno che non è così, ci vuole quello volatile, non quello CRC, se non ti mangi il carboncino. No, quello per contatti li ho messo proprio, non li ho messo il CRC, no, c'è proprio l'affare per i contatti. Va bene allora. Perché se lo tieni fermo non ne fa di casino, invece se lo muovi appena comincia a sentirsi le scariche. Aspetta che vado secondo il bagno ufficiale, arrivo subito. Eia, però è sigillato e non entra lo strato contatto, invece si è formato rustico su qualche cosa, lo dentro. E non si può aprire, è sigillato. Come la frase mitica di regola, nata lì? E sarebbe? Lampaggi d'urtu. Ma questo è comodo, è capitolare. Adesso facendo le non proprio. proprio scarica, ma si sente come il rumore del microfono stesso. Ma tu hai detto che è un MB più 4? Così è. Ehia. Forse il microfono, il tasto di plastica come viene premuto, come lo tieni premuto, capta tutto mi quello, ecco perché io, quando uso quello da tavolo, quando faccio un passaggio, magari non brevissimo ma lungo, tipo questo, lo blocco subito, non lo tengo premuto, lo blocco subito e parlo e poi sblocco. Aspetta che trucco, guarda un po'. Peggio che mai. Sì. Sono bloccato quando ho detto guarda un po' cosa fa. Para pa pa para pa pa. Ma anche durante faceva. Natale dai, non può. Non so nemmeno come sono fatte le capsule. Cos'è a condensatore quella dell'MB più 5? Quella piccolina piccolina del telefono gli ho messo. Oh, il mio è nuovo, non l'ho mai aperto. È nuovo, quindi non so attualmente che capsule mettano, ma credo che sia condensatore. Non ceramica o roba del genere. Qualcuno aveva scritto capsula ceramica, sì, ce l'abbia aggiunto. Ah, di quelle piccoline sono, piccoline, piccoline. Eia. Bene, vedi che sta calando il sole proprio, è sparito il sole all'orizzonte. E poi allungheranno le giornate, poi cambierà l'ora e caspita, farà buio alle 9. Eppure bisogna mettere mano alla roba da pesca, lo sai. C'è un americano, devo cambiargli la lenza. C'è un americano. Qualche canna, devo cambiare la lenza che vicchia di secoli. A me piacerebbe pescare americani, però gli americani costano, se lo metti intero con l'amo grosso te ne escono ogni spezia. I bigattini sono più popolari, per poveri sono me. Sì, ma se usi i bigattini con quel calamento che uso io, lo vedi se sì. Col galleggiante? Sì. Ahia. Beh no, galleggiante la verità, non ho mai pescato, solo il fiume Cilis, che però è un fiumiciattolo lurido, avevo usato come galleggiante di quelle palle di mare, quelle pelosette, non so se è presente, come piombino avevo usato una specie di pietra o una conchiglia che era forata, e ho preso muggine da bambino. Guarda, adesso sono il tappo di davanti, dove c'è la capsula. No, o all'inizio o alla fine fa sempre rumore, o durante. Ma cosa malattia può essere, tu? Ma da molto ce l'hai quella MB più 5? Più 4 è questa. Ed è a metà. Ma vecchio è. Forse bisogna farla andare in pensione ormai. Ma a me mi sembra che non avere quel microfono del Kaiser. Avanti prego. Allora 9 più 5, ma non sei Gianfranco di Monteoro? E chi sei? California? Segnale non se ne posso dare, perché sono così dico, radio buono. Questo è MB più 4, mi sa cosa mi ha specchiato. La capsula. Perché quella che aveva non andava bene, tu. Ero la mia capsula di questo punto. Avete parlato di nuovo in due, vai California, è passato Natalino. Ehi, conta che io sono... Dove c'è scarpa, mi. Dove c'è scarpa? Scarpa elettrodomestici. Buttaci tutto, Franco. Io la base di tutto. Meno male devi passare qua e ti scenda un pistone, ti scenda a casa. Mi fai rimanere tra la sera qui a bloccato per rapire questo smitter. Ti stai arrivando bene, segnale 5, sì. Beh, 5 non è molto però, eh. Sì, vabbè, per come sta uscendo, in quelle condizioni che sta uscendo va bene. E segnale 5 di qua. C'era messo neanche a mezzo metro al muro. Guarda se gracchia ancora un attimo. Quindi dici che è la cazzola. Ma non è occa, è cazzola di luce buonieri, questo. E questo è piccolo così, non è occa. Io Antone, patteggiamo? Patteggiamo, dimmi. E io se vengo cosa mi dai? Cosa mi scendi? Cosa vuoi? Ti posso scendere qualche... Cacciavite, cosa ti serve? Pinza? Quella radio. Quella digitale vuoi? Sì. Bene, te la scendo, qual è il problema? Me la scendi e poi? E poi te la devi, ma... Antonio, ho già detto che tra di noi è stato un cattivo acquisto per modulare tra di noi. Sì, non c'è problema, te lo scendo, ma contatto non lo sto usando, per lasciarlo così a guastarsi, te lo restituisco, tanto non succede nulla a me. Ehi, vuol dire che ti farò un altro regalo, una cosa più utile. Quello che vuoi, ma se, non c'è problema, già lo sai. Sì, io vengo allora, noi ci pigliamo una cosa, ti porto in via Verona, così, per non stare a casa buttatini. Ehi, non c'è problema Marco, io stavo aspettando quel cane morto che è entrato adesso, doveva passare a casa. Questa volta me ne vado a bagarsi, me ne vado, mica lo aspetta a lui, no? Lo brucio la prossima volta, mi ha bruciato tutta la giornata, l'ha bruciato. Adesso però se la prende in culo, California, perché adesso ci riusciamo, ci beviamo una bella birra, la faccia sua, così impara e schiatta. Stavo aspettando a te invece, ho fatto il piatto, ho fatto tutto pulito, devo andare a casa, pensando che arrivavi tu, se avete bene, ci vediamo dopo. Vado a prendere il pezzo alla fusata, invece non ti sei visto, ti sei perso anzi. Per me tu sei andato dietro qualche cagnolina, sei andato. Se mi dai 10 euro te lo procuro io, quello smitter. Attaccato un baracchino ce l'ho. Mi dai 10 euro e poi mi metti la bella, siamo a posto. Ah, è già fuggito. Sì, adesso lo sto spaccando e sto mettendo forma a quella vecchia, a vedere. Dice che si occupo. C'era un piccolo lì, dell'MG4. Già lo so che è nuovo. Lo so che è migliore. Secondo me Natalino è il motorino e non ce lo puoi dire. È un canale armato, è Natalino, poi yeah. È. Allora, lascia prendere la scatola del digitale, così a posto, tutto riscatolato questo. Natalì, ma Pomponio, sto arrivando? Sì, vieni, non c'è problema telefono. Qui io sono davvero nello scantato. Ma sai che non abbiamo mai avuto problemi le due? Ehi, ciao Natalino, ciao California, adesso scendo. Ciao, ciao Marta. Guarda, io bevo solo caffetteria, Pomponio è che va a birra. Cavolaggio. Ah, non sta più bevendo, e come mai? Un miracolo. Tornato. Non sto bevendo una adesso, mi è bravo, perché so mi stava bevendo l'acqua con quel cane. E poi saltava. Cazzo, non perché finché ce l'ho portato giù a pisciare quando mi ha pisciato qui, cazzo, blu. Magari ce la faccio la posta questo cane. Ho capito, sono trovato. Quella bazooka c'è carifatto invece, come ti ho detto io. I colleghi la massa riesce molto meglio di quel di Polo. Fallo 5,50 quel filo, non fallo 7 metri come hai detto tu, 5,50 giusto giusto. La richiudi, gli metti la staffa e la colleghi allo stenditoio. Capito? È vero che con l'affitto naturalmente devi evitare la colleghi, gli metti un dado un bullone. Se no non fa, è l'ultima che faccia massa. Capito? Buon'anima a me, mia buon'anima a me. Non glielo dire, Viattore, non glielo dire. Non glielo dico no. Oh, ma allora sei bravo, sì. Ciao, Fra, e me. E la tua no. Ciao, Fra, io adesso sono addobbato, vado in giro a fare compere. Dunque, a spendere soldi, e adesso sono appena arrivato, ho sentito proprio a te per primo, al momento. Ok, va benissimo, io ti sento benissimo, Fra. Sentiamo 7 col di Polo, però la radio è ultima. Non ti preoccupare, accontentati, perché intanto noi siamo in pochi, per cui già ci sentiamo lo stesso, non è un problema. Oh, dipende anche un po' da me, perché non ho la mantova come avevo prima, l'avevo tirata giù e ho messo anch'io un dipolo, però in verticale l'ho messa io, per cui va bene lo stesso. E poi l'ho messa in una posizione bassa della casa, non nella posizione alta. Invece la mantova prima era addirittura roba di 5 o 6 metri più in alto di dove questo dipolo. Perciò ti puoi immaginare, aggiungi qualcosa a quel segnale che ti ho dato e sicuramente è così. Santiago 9 in dipolo fa più che bene, poi bisogna vedere se è favorevole a me il dipolo, se è favorevole dall'altra parte, per cui va benissimo così. Di solito antenna, di solito a Riboli nella zona tua 9,20, 9,25 più o meno. Anch'io sto andando con 5 watt, niente di più, un semplicissimo baracchino, tra l'altro anche molto adattato, per cui va bene lo stesso. Ok, Fra, mi ha fatto piacere di ascoltarti comunque. Cazzo, tagliai una lì, se ne attenditi. Sì, ma va benissimo, perlomeno io ti sento alla grande, Fra, non ci sono problemi. Va bene, per la mia parte va molto bene, non ci sono problemi. La radio è ottima, per cui meglio di così. Allora, avanti, Antonè, ti saluto anche a te naturalmente, non so se c'è qualcun altro, saluto a tutti, dai, scusate il ping pong con Franco, ma era in un certo senso doveroso perché non sa come tempo senza sentirlo. Vai Antonè. Antonio è caduto dalla sedia, è andato a bersi un bel boccione di birra. Chi c'è? Natalino, ci sei? No, non c'è nemmeno Natalino, chi c'era poi? Prova, fra, già siamo qua, non è un problema. No, questo è proprio Santiago Zero, ti sento lo stesso, ma è Santiago Zero, non arriva nemmeno a uno di Santiago. No, no, l'altro era molto meglio. Ma la radio comunque ti sento ugualmente bene. Prova, prova, siamo qua, fra, non ci sono problemi. Questa è bassissima anche in radio, questa è proprio a livello terra-terra questa. Io sto chiudendo questo scelto, ci sentiamo dopo, dai, ciao. Ok Antonio, ti ho chiamato, cosa sei andato, va bene? No, stavo parlando, soprattutto con Simona, poi c'è il cane che sta girando con ballo, non sto prendendo una pallina e poter giocare. Perché mi stavo facendo vedere l'ansia, ma ne veniva qui, e poi saltava. La radio va bene così, ho capito Antonè. Naturalmente il cane si vede che è il cucciolo e ha voglia di giocare. Sì, va bene così, adesso va di nuovo come prima, o fra, ottima la radio. E ti dirò che è anche leggermente più forte il segnale, ma di poco però, non più di tanto. Comunque leggermente più forte. Ok fra, no, non rischiare, se non sei sicuro non rischiare, ci mancherebbe. Ecco, ti abbiato che ti sei da rappresentare di frequenza, figurati. No, non rischiare fra. Franco. Adesso bene? La vecchia gli ho messo, va. Un attimo. Ok, ciao Natalia, ti ho chiamato poc'anzi. Si vede che eri ti sei allontanato dalla radio. Sì, ma così va bene, Flavio, io ripeto, ti sento Radio 5, Santiago 7, per cui va benissimo. Qui da me va benissimo. Considera, come ti ho detto poc'anzi, che la mia antenna è bassa e dunque perdo qualche punto S, lo perdo, anzi, forse più di uno anche, più di due, perché essendo bassa l'antenna chiaramente non ha quella grande ricezione che avevo una volta. Premesso che l'antenna a Mantova Tubo ce l'ho ancora, però non la piazzo più, sai perché fra? Perché durante la notte d'inverno, quando soffia il vento, era un tormento, fischiavo nei radiali, che è una cosa impressionante. Guarda, è nuova, perché l'avevo comprata, cosa ce l'ho usata? Un annetto, non più di un anno. 145 euro l'avevo pagata, ti puoi immaginare, ma per dire no, l'ho sfruttata quasi niente. Già ne vale la candela, sì, perché la Mantova 5 è un'ottima antenna, è quel manicotto che c'è dove si attacca il PL, lì lo vendo, no, è tranquillo, perché l'avevo sostituito io anche, perché quando l'ho tirata giù ho visto che il coso centrale, quello del contatto centrale, si muoveva, non mi è piaciuto e l'ho sostituito, poi l'ho rimesso a posto ed era una meraviglia. Era come nuova, in effetti era nuova, l'antenna ci aveva appena un anno di trasmissione e ricezione, niente di più. Poi mi sono messo così, scherzando, ho visto il computer, ho visto un progettino per questa antenna che ho adesso e l'ho fatta, un dipolo e va bene, altro che. Giulio, come mi ascolti in radio? La bomba, Natali. Ehi, cazzo, ma tu te lo fai nei momenti che ce l'hai il tempo, non la buttare, perché costa 140 euro Luigi una mantova o fra, ripristinala perché ne vale la pena, ne vale la pena veramente, a parte il fatto che la mantova 5 non si trova più, ed è una delle migliori antenne che abbiano mai costruito per la 27, oggi si trova solo la Turbo, ma devo dire che anche non a detta mia, io perché la 5 non l'ho mai avuta, però a detta di altre persone, di chi ce l'ha avuta, hanno sempre detto che la Mantova 5 è migliore della Turbo, poi non so cosa dirti fra. Io l'avrei ripristinata, guarda, e non la buttare perché è un sacrilegio buttarla, guarda. Tu già sei all'altezza di fare quelle cose, non hai bisogno di nessuno, per cui caspita, sei nel settore dell'elettrico anche, hai lavorato e penso che stai ancora lavorando, per cui non secondo me, guarda, è da ripristinare, anche se si è piegata un po', la raddrizzi in qualche maniera, già ti arrangi, no? Non c'è bisogno che ti dica niente nessuno. Dove mai disciuto, tutte le sere c'è, aspetta che l'accendo, ecco qua, adesso è acceso, in questo momento è acceso, in questo momento non sento nessuno, ma guarda, tutte le sere quello viene usato, soprattutto dagli amici lì della zona di Latte Dolce, anche io lo uso, Antonello Pomponi è più lì in PMR che in 27, penso un po', la frequenza è 446.081, quella è la frequenza del canale 7, quello che noi utilizziamo sempre. Posso? Certo che puoi, guarda, in questo momento c'è gente in PMR, guarda, mi si è accesa la spia, per cui c'è gente in PMR. Avanti, posso? Ehi, volevo sapere come sta facendo, dai, che gli ho cambiato la capsula, perché mi stava facendo delle scariche, quell'altra. Ce l'ho a 5 adesso il microfono. È a bomba, Natalia, a bomba, hai fatto bene, perché ieri io in qualche maniera ti ho ascoltato, anche se non ho avuto modo di entrare, eccetera, ed era uno schifo. Oggi è perfetta la modulazione. Sì, ce l'ho anche a metà, non ho alzato, per non già lo sai. Ma non c'è bisogno di aumentare, perché va benissimo. Se ti sto dicendo che stai arrivando a bomba, che motivo hai di aumentare ancora? Infatti, non ho nessun motivo e lo uso così. L'importante è che esca bene di radio. Ormai quando ha giù il suo microfono da palmo in mano, che mi senti e non mi senti. Va benissimo, Natalia, va benissimo, guarda, va benissimo. Anzi, devo dirti che se lo aumenti probabilmente puoi anche dare fastidio a chi ascolta. A me mi piace così ed ti dico che è un volume altissimo. Va benissimo, adesso io non lo so come ti possono sentire gli altri, ma io ti sento con un volume altissimo. Ripristinato bene, l'ho sto rifatto questo MB più 4. Avanti quel BP chi è? Buonasera, grazie. Oh, ciao Gianni, ti mando avanti un amico che era a tempo, poi non so se hai ascoltato prima, vediamo un po' se lo riconosci. Faccio la che sì, c'è anche Natalino, non so se hai ascoltato prima o già, sta uscendo molto bene anche Natalino adesso, perché ha sostituito la capsula del microfono dell'MB4, per cui va bene. Ieri era pietoso ascoltare la modulazione di Natalino, perché aveva la capsula KO, ma oggi esce molto bene, in una maniera molto squillante. Vai Natalino. Ciao già, buonasera. Ah, io l'ho rifatto questo MB4, non gli ho cambiato solo la capsula. No? E cosa gli hai fatto, Natale? Scusa già, cosa gli hai fatto? Oh, anche il ponte gli hai fatto, Natalie, dove ci sono le due resistenze? Sì, c'era già, l'avevo tolto e adesso l'ho rimesso, capito? Ho rimesso tutto a posto come era prima. Ho capito, ma quel microfono è stato anche modificato in quanto alla modulazione, perché si può fare un ponte, ci sono due resistenze, che basta fare un ponte senza togliere le resistenze, diretto, e aumenta di gran lunga anche la modulazione, ma non ce n'è bisogno perché va benissimo, se non l'hai fatto va bene ugualmente, non ci sono problemi. Che l'ho fatto, ho detto che l'avevo tolto quel ponte per amplificare di meno, adesso ho rimesso tutto a posto. Appunto, è quello che ti stavo dicendo, se tu fai il ponte lì amplifica che non è la vita, e allora te lo sto dicendo, va bene, va benissimo quel microfono adesso. Gianni, come ti sentiamo a te? Io a te ti sento come sempre, è la meraviglia. Io capito, c'ho lo splatter, ho detto come vi sentite in radio, capito. Fortissimo già, fortissimo ti sento. Io questa tacca già che sta parato in macchina. So che sto farlo girare, dai, non sto più usando in macchina. Non stai più usando in macchina, ma è saccato più sì. Sì, sta uscendo fortissimo già, non ci sono problemi. Vai Franco. Abbio la macchina qui, porto lì. Ok, vai fra. Chi è quel pischietto? Avanti. Bassissimo, quasi niente, però chi è? Avanti. Vabbè, questo deve essere. Natali, questo deve essere quello che ci mette a fischiare la sera e non parla mai. Quel guasto è. Sì, vabbè, dai. Allora, i guasti con i guasti. Vero già. Sì, 446 081, e in automatico diventa punto 25, che esce piccolo piccolo piccolo come numerazione, poi 446 081 punto 25, però tu scrivi solo 081 446 081, poi l'automatico esce anche 25, capito? Ok, avanti Gianni. Gianni è sparito. Natalia, Gianni è sparito. Anche tu sei sparito. Adesso vanno e telefono a chi l'ha visto per vedere se ci siete sempre. Gianni, tornato sì. Sai che cambia apparato, che questo qua va bene. Va bene, che cambia apparato. D'accordo, stanno splatterando. Sul canale 23 vedete mettere solo. Sì, infatti, ma cazzo. Vieni qua, ti di l'altro mondo. Vicino sono, vicino a Gianni sono gli altri, è chiaro che io non li sento, la verità, io silenzio assoluto qua, per cui niente splatter. Anche tu lo senti lo splatter, Natalia? Se sono con questo scatole fiammifero, con l'altro non sento volare una mosca, ma con questo già li sento, non è che mi danno tanto fastidio, no? Gianni forse di più perché è più vicino. Probabile sì. Vabbè, vediamo un po' se Franco ha trovato quella frequenza. Franco! Aspetta che ti chiamo io, vediamo se mi senti a me. Scusa l'attimino, ti chiamo io su quella frequenza, ascoltami. Non rispondi 27 casomai. Attento Franco, mi ascolti? Ecco, sono trovato con Dio, adesso non si sente più. E adesso hai anche anche migliorato perché c'è un po' di eco, e vabbè, quello è quello, ho già, quello è un'altra cuba, però anche l'altro si riprende molto bene. Capito già, ho detto, l'hanno, lo stanno vendendo il gas, sì, ho sbagliato il microfono poco calcio, l'ho detto in PMR, e lo vendono 60-70 euro, nuovissimo, ieri dal computer l'ho visto, ho sbagliato il microfono poco calcio, e l'ho detto in PMR. L'hanno vendendo il gas, sento me. No, il 48, non il gas, il 48, il Saturneco 200, però era l'altro, il Petrus. Che poi è uguale, oh, la stessa cosa. Io già ce l'ho, non so se che farà bene questo. No, ma va bene, questo qua è un po' poco. È nuovo, nuovo, è toccato. L'unica cosa che ha fatto è che ha cambiato la resistenza, perché era andata tutto lì, ma l'ha fatto la persona, diciamo, di quelle che lo sanno fare. Poi no. C'ero tanti anni, lucido, non c'è un graffio, a me non so come, va. Non è di quelli toccati, gli schiacciapiccati, infatti. Ma l'altro, il Midland non è normale quello che c'è, la vita, modificato. Lo so, infatti si sentiva, la spinta si sentiva, però questa è più bella anche di modulazione, più squillante, in poche parole, più fedele soprattutto alla tua tonalità di voce. Uia, dimmi. Ma cosa ne fate che sul microfono? Che te sale più bene, è una bella modulazione. Con che apparecchio siete? Sono monogatto. Io ho messo questo il microfono per non avere quello in mano che come mi allontanavo poco a poco non mi sentivano più. Sì, è vero. Scendo molto bene, per cui ha fatto un buon lavoro, dai, ha fatto bene a metterlo in ordine, no, perché aveva problemi di capsula, aveva, capito? E quello era, ieri usciva malissimo anche con quel microfono, perché aveva problemi di capsula. Ah, ecco, e con l'uomo gatto cosa vuoi fare? Non è che ti sia più intanto di capo, va bene, dai, per me, ma vicino si sente così, non sono lontano, come sia, però... Sì, lo sto dicendo, è fortissimo, qui è fortissimo. Vediamo Franco, Franco. È leggermente più forte, diciamo che ha guadagnato Santiago. Sì, Santiago 8, adesso mi sta arrivando, Santiago 8, oh, è leggermente abbondante anche. Sì, qui è quasi 9, dai, quasi 9. Sì, più del dipolo. Sì, ma il dipolo, è orientato verso un'altra parte. È chiaro che da me non arriva, lo sai benissimo, no? Il dipolo è direttivo in due posti, ma non è omnidirezionale. Perciò è chiaro che è così. Non c'è da meravigliarsi se l'antennino esce meglio, non c'è, perché l'antennino è omnidirezionale, no? Io ne ho 5 anni ancora. i chiedanti non erano a posto. Tu pensa che io sono in frequenza dal 1972, fra, non ho mai e poi mai messo un tirante, ho utilizzato semplicemente un tubo valido, un tubo consistente, per cui non ho avuto bisogno mai, né nell'altra casa dove ero prima, né in questa, eppure qua vento ne soffia, quando arriva il vento normale, maestrale, ti posso garantire che soffia abbastanza, eppure io non ho mai avuto niente in quanto a quello, fra. No, io sto usando il gommino, il suo gommino, il suo gommino originale. Sì, il gommino, un gommino quanto è lungo? 15 cm sarà, 15, 20, allora, a un palmo non ci arriva. Se te lo sto dicendo, non arriva a un palmo di mano, non arriva, sarà 15 cm all'incirca. Prova, secondo che radio è, a proposito, in antenna non funziona, perché io ne ho un altro, e se metti l'antenna esterna, siccome io ce l'ho l'antenna esterna, però non la uso mai, la uso solo per il ricevitore, e non funziona quell'altro, con l'antenna esterna, mentre invece col gommino esce benissimo. Prova, secondo che radiolina è, non va bene l'antenna, perché la manda in saturazione. L'antenna, perché il segnale diventa eccessivo e manda in saturazione il PMR. Il mio non è di quei problemi, il mio va sia col gommino che con l'antenna esterna. Sì, Natali, quello sì, d'accordo, ma anch'io, io ne ho due, uno funziona anche con l'antenna, anche se io non la utilizzo mai, però l'altro che ho, il secondo che avevo preso, quello con l'antenna esterna non va, mentre invece metto il gommino e mi sentono benissimo dappertutto. Non so per quale motivo, però è così. Cioè, mi hanno detto che manda l'antenna, ricevendo un segnale eccessivo, manda la saturazione, evidentemente la media frequenza di quel portatilino, mentre l'altro, diciamo che è un pochino migliore, anche perché costa tre volte tanto, come soldi, e allora quell'altro funziona anche con l'antenna. Io ne ho un altro di questo, ne ho due. Funziona anche quell'altro, ma quello non lo metto. Quindi, io sono attrezzato per lì. Beh, certo che sei attrezzato, io non so. Va bene, vai Gianni. Ehi, allora fai che mi sto inviando una cosa, se ti piace. Manda già. E poi casomai te ne mando una io, te ne mando, quello che c'è stato un terremoto a Cagliari. Sto scherzando, ma comunque così me l'hanno mandato, terremoto a Cagliari, no forse l'ho cancellato, scusa, vediamo un po'. No, io stavo a Natalino, una cosa fiscale, una cosa che ho comprato in Germania. Ah, ho capito, manda, io gli ho acceso il telefono. Ho fatto la prescrizione personalizzata, in Germania. No, non c'è la fotografia che ti volevo mandare, l'avevo già cancellata, nemmeno nella galleria c'è, già, è sparita. L'avevo mandato Davide, saranno state una trentina di donne, tutte quante a seno nudo, tutte indistintamente, e mi ha scritto sul coso, mi ha scritto terremoto a Cagliari, e mi ha inviato Davide. Ho capitato il vento tutti i reggipetti. Sarà per quello, boh. Non è arrivato nulla. Sta caricando già, fa un po', non posso vedere. È già arrivato il tuo messaggio. È bello. Quello, ma questo serve per prendere il cane a maniglia o già? No. Quando lo risalgo. E niente, non mi ha parlato in Germania perché penso capito Tyson, è quella specie di targhettina, cosa è dove c'è scritto Tyson, cos'è quello? Anche lì c'è un cerchietto, ma lì non si legge, cosa c'è scritto lì? Sono le trompette, ce n'è una trompetta prima della scritta e una... Ah, ho capito, sì. Sì, ho visto che si può mettere anche un guinzaglio, però se volendo si può prendere anche a maniglia il cane, dai, ho capito. Sì, magari ci si sta per azzuffare quello di lì. No, c'è il bambino, l'ho comprato per il compleanno, tu mi dai, sei scemo, però l'ho voluta comprare perché l'ubita mi è piaciuta, sono andato su internet, ho cercato, non so se qualcuno che le facesse, ho chiesto anche dove vengono animali, eccetera, eccetera, e non c'era nessuno che le faceva con sulle scelte come le volevo io. Allora ho chiamato la Julius, come fanno le pettoline in Germania, e mi ha detto che ci voleva almeno 10 giorni per arrivare, però poi non c'è problema, 10 giorni mi arrivasse. Ok, sì, no, è bella, molto bella. Perché devono pensare che sei scemo? Assolutamente no. Ognuno con i soldi suoi fa quello che crede, ci mancherebbe già. Se a te ti è andato di fare così hai fatto bene, ci mancherebbe. Non devi pensare al giudizio di nessuno. Sono cose che interessano a te e tu solo tu puoi decidere una cosa che ti interessa. Poi degli altri fregate. Opa. Ma neanche dove fanno le divise lo scrivono il nome, nulla. Non penso, ho chiesto in tutti i negozi di animali, nessuno sapeva niente. Allora ho trovato sul sito della Julius, quello che fa proprio le pettoline Julius. Ci ha mandato le misure, il programma me l'ha levata. Ti è piaciuta la pezza levata? Eia. Sai, io c'è personalizzata, eh? Infatti. È bella, già, è bella, hai fatto bene. Così almeno anziché avere il guinzaglio al collo praticamente, ce l'ha nel petto e lì si legge molto meglio, no? No, nel collo io sono contrario, perché mi viene la tracheite, a cui è ritirata, e poi rischiamo la trachea. Io sono informato molto su queste cose. Così, quando calentina sicuramente qualche conseguenza c'è quando è al collo, certo, ma è così, in effetti è così già. No, hai fatto bene, hai fatto benissimo a comprarmi quella, così almeno può tirare quanto vuole e non gli succede niente. Vediamo Franco se ha combinato qualcosa, avanti Franco. Poi Franco non risponde, evidentemente sta facendo qualcosa. Eh sì, sicuramente sta facendo qualcosa. E vabbè, sono contento che è rientrato in frequenza Franco, quindi almeno possiamo scambiare quattro chiacchiere anche con lui. Avanti già. Sì, stavo dicendo, la mia macchina mi sta abbandonando, sta dando tutti gli spiriti. Ogni tanto non accendere, la vai a accendere, non accendere, devi spegnere, riaccendere, lui guarda, tanto se sei portato sono fatta malata un altro giorno. Già, è certo, dopo tanti anni si sta la macchina. Così quando ce l'avevo io ho la Opel e dopo alla fine quando ho incominciato a farmi spendere qualche soldo ho fatto boh basta, non lo voglio più sapere, sono andato e mi ho comprato quella che ho adesso, per cui non stavo lì, è utile andare a riparare una cosa che può funzionare per un breve tempo e poi magari ti sente succede un altro. Allora a quel punto lì ci ho pensato, ma chi me lo fa fare? Adesso la cambio, intanto è già vecchia, una macchina che ha 200.000 km più o meno aveva, e allora mi sono deciso e ho comprato la macchinetta, anche che 6.600 di cilindrata e 1.100 1130 mi sembra, 1140, boh, di preciso adesso non me lo ricordo, ma così, ma va più che bene già, voglia, se la spingo va anche oltre i 150, per cui, ma siccome io cammino sempre piano, mi va più che bene, ho già. Comprate, dammi retta, io ripeto, non ci ho pensato due volte, perché se ci pensavo di domani magari non l'avrei comprata, e invece sono andato deciso, sono andato con il blocchetto degli assegni, ho visto quanto costa, ha fatto il conteggio, come la fa? La contante la pago, le faccio un assegno, va bene, ha fatto il conteggio, 9.700 euro. 300 euro hanno voluto per la rottamazione dell'altro, hanno fatto rottamare da loro stesso, hanno voluto. E lì ho fatto un assegno da 10 milioni, gli ho fatto, e bene, sono andato con la macchina nel giro di pochi giorni, ho già. Ma si può fare l'assegno, che cifra si può mettere l'assegno? Io pensavo che ci fosse un massimale. Beh, considera che non è oggi quello che ho fatto io, adesso non lo so, quanto è oggi non lo so, ma prima andava bene, già, non ce n'erano limiti. Che il conteggio pagava in due anni, caspita, me ne prendeva quasi altre 3.000, me ne prendeva, che me lo fa fare? Da 10.000 diventavano quasi 13.000, no, ho fatto, lasciamo perdere, l'ho pagata subito, non se ne parla più, anzi l'ho pagata anticipata anche, aspetta, ma poi me l'ho fatto aspettare 7-8 giorni, adesso non me lo ricordo preciso, ma il tempo di andare alla motorizzazione, no? Per matricolarla, eccetera, è ovvio, no? Anche perché siccome io avevo il boscetta nera, boscetta, e quella che c'era all'esposizione era celeste, e celeste mia moglie non la voleva, e allora ho deciso per il nero, ho dovuto aspettare anche che arrivasse, e poi appena che è arrivata loro l'hanno subito matricolata, mi hanno chiamato e sono andata a ritirarla, niente di più. Guarda, io non lo so quanto prendono gli altri, io so solo che ad ora hanno voluto 300 euro, perché la cifra della macchina era 9.700, hanno fatto conto tondo e ci hanno pensato loro, ci hanno pensato, e sono venuti sul posto dove ce l'avevo in bottega parcheggiata, l'hanno caricata sopra il carro attrezzi e ci hanno pensato loro a rottamarla. E ti volevo dire, io quando un paio di anni fa avevo rottamato il motocarro, quello da lavoro, no? Quello che avevo per il lavoro, ero andato da Tavoni voleva, per rottamare quella voleva, 180 euro. Allora da lì mi sono spostato un po' più in là e sono andato da Marcetto, Marcetto ha voluto 120 euro, per dirti, no? Non lo so già, ognuno fa il suo prezzo, capito? Aspetta, adesso che mi arrivo. portarvi una macchina a rotamare, e invece si vogliono pagare loro oggi, e poi si vendono anche i pezzi buoni che riescono a recuperare, se li vendono anche, sì, che ti puoi immaginare come sono cambiati i tempi. Non ho capito perché avevo il PMR acceso e stavo facendo un casino. Ripeti già, per cortesia. Moretto, se ti ho lasciato qualche foglio di rottamazione, come l'hanno rottamata, diciamo, se ti arriva per pagare il foglio, devi dimostrare che tu eri rottamata. Ti ha lasciato qualche foglio? Eh beh, certo, già lo credo, il cazzo è così. Gliela facevo rottamare così, ci mancherebbe. Certo, già lo credo, mi hanno mandato un foglio che a loro gliel'ha mandato la motorizzazione, come si chiama? L'automobile club, boh, non so chi gliel'ha mandato. Poi quando è arrivato mi hanno telefonato, venga a ritirarsi la ricevuta della rottamazione, certo. Ricevuta per forza quando tu la rottami. E che macchina devi prendere già? La roba da Giacomo. Oh. Sì. Per non quella. Ma per la gara, certamente, c'è da fare un impianto io. Vabbè, quella. Ho letto un po' di caratteristiche su un quattro volte, mi è piaciuta. Un cappa. Anda bene, veda. Anche l'altra, l'altra macchina, quella che guida mia figlia, anche quella l'avevo comprata in contante sempre già, quella costava anche molto di più, anche della C3, quella è la Ford Fiesta, e quella già praticamente dal 2005, fate il conto, già 13 anni ha quella macchina lì, e quella ne ha di 1000 km, ha già 160.000 km, mentre quella che guido io, che poi guido anche l'altra, ma l'ho guidata praticamente nei giorni festivi con l'altra, eccetera. No, la mia, per tenere presente che ho già 8 anni e mezzo, ho già, e ho appena 35.000 km la C3, è nuova nuova. Beh, certo, no, mia figlia già ne ha fatto i miei chilometri, sai, perché va fuori per lavori dappertutto, in tutta la Sardegna, sta sempre in giro, sempre viaggiando, soprattutto Olbia, Alghero, Olisano, anche a Cagliari ci sono scritto, tempio, poi non ne parliamo, a Tempio ha lavorato 4 anni fissa lì a Tempio e viaggiava con quella macchina, ti puoi immaginare, tutti i santissimi giorni, mattina e sera. Sempre in giro. E quella vita l'avete cambiata, è sempre quella, però è sempre stata messa a posto come manutenzione, eccetera, sempre controllata. Adesso mi fa un po' la riporto per cambiare di nuovo la cosa della distribuzione, la cinghia della distribuzione, perché è a cinghia, non è a catena. La Ford Fiesta, quel tipo lì è a cinghia, capito? L'avevo già cambiata quando aveva 80.000 km, una cosa così. Adesso ne ha 160, per cui è arrivato il momento di riportarla per cambiare. Però l'ha messa a punto sistematicamente, ce l'ha dopo ogni 4, 5, 6 mesi, perché lei viaggia molto, capito già? Dunque la deve tenere sempre in perfetta efficienza la macchina. Gli volevano dare 1.500 euro e la macchina di Antonello, sì, è vero che ha 14 anni, è a 180.000 km, ma se tu vedi quella macchina, soprattutto adesso che il carrozziere gli ha fatto alcuni ritocchi eccetera, è fiammante, è nuova, sia dentro che fuori, le volevo lavorare, poi è perfetta, non si sente la vibrazione, non si sente niente, è perfetta veramente già. È andata a cambiarla, le volevo volare, se la volevo valutare appena 1500 euro, poi magari lo sarebbe venduta 5 o 6 mila euro. Beh, ma è fatta così, ci sono invece queste cose, lo sai dove si compra bene, anche a seconda mano, in continente, a Brescia, ci sono dei miei colleghi che sono andati, uno si è preso fuori strada, forse è preso dalla fabbrica, un Ranger, ma no, ti sto dicendo che se tu lo vedi, sembra che stia uscendo dalla fabbrica. Comprato una mio fratello ed era una BMW, ma tu dovevi vedere questa macchina quanto era bella e quanto era nuova, ma bella, l'aveva pagata sempre in contante 8.000 euro, è andato il figlio e me l'ha portata qua, l'ha tenuta, cosa l'ha tenuta? 3 mesi, non di più, un paio di mesi fa, sotto casa, perché anziché metterla dentro in garage, lui l'ha tenuta fuori perché all'ingresso c'era un ferro del cancello elettrico, no? Che era troppo alto e quando passava lì ha avuto paura di toccare sotto, no? E allora l'ha lasciato fuori. Beh, il caso ha voluto che la notte gliel'hanno incendiata. 8.000 euro buttati al vento così, non ce l'aveva nemmeno 3 mesi già. Ma se tu vedevi questa macchina, era fiammante. Aveva anche l'autoradio col viva voce per il telefono, tutto, qualsiasi comando, tutto elettrico, bella, ma veramente bella. Sì, sì, con le macchine, per quanto siano vecchie, sono tutte accessoriate già da quel di cili, pelle, tutte queste cose qua, già senza essere opzionale, sono già di sì. Sì, ma mi sembra che adesso non vorrei sbagliarmi, che di cilindrata era più di 2000, 2005 forse, boh, non lo so, non di preciso, ma aveva anche una cilindrata altissima. Se ti sto dicendo, era un gioiello di macchina, era a entrare con i pantaloni giornalieri era guarda, un peccato. Doveva entrare elegante, possibilmente, perché se lo sfigurava dentro, per dire, no? E gli hanno incendiato, il giorno gli hanno incendiato due lì dove abita lui e purtroppo è così, anzi ti dico di più, hanno messo fuoco alla sua, ha incendiato l'altra, ha dovuto pagare anche l'altra macchina, per dirti no già, ma cosa è l'altro mondo? Oltre alla roba, ti immagini, ma è la roba di delinquente oppure qualche rispetto? È roba di delinquenti, sicuramente, sai, i soliti randaggi che vanno in giro la notte a fare il danno, non si sa. In quella zona, siccome mio fratello abita dalle parti dove ci sono le ultime case popolari che hanno dato, qui nella zona dove abito io, però verso Montignuso, no? E in quella zona lì c'è tutta la pilandra, cioè, non sai com'è. Però questo non significa niente, perché anche a Sassari ne hanno incendiato in strade di una certa importanza tutti i giorni, e a Sant'Orsola quanto ne hanno incendiato. Oh, yeah. Purtroppo Natalì, non li trovi mai, lo sai che, perché quelli agiscono durante la notte, nelle ore piccole, e sono questi disgraziati, questi drogati, questi ladri che vanno in giro, cosa vuoi che dica, e fanno del male così alla gente, o per gelosia, o per il gusto di fare del male, purtroppo è così. Vai già. Sì, magari sì, non conosciamo quella la gente che c'ha la macchina grossa, ma io ho preso 10 anni di più, non lo so. Io dopo guarda, se mi abbia la seconda mano, non so come. Però purtroppo la macchina è così. La macchina è virata dalle bombe, anche se tiene riservato molte volte, entrano anche dei cortini, delle cose poi un po' fumate, se si bloccano rispetto, te lo fanno lo stesso. Ma la mia cosa sta morendo, Natalino non la posso più, stavo a lavorare e si sta spegnendo 50 volte scendendo, devo spegnere, lasciare la marcia inserita, spegnere qua, non riaccendere, ma proprio tutto per questo movimento, entra al servosterzo, la pista si blocca, quindi se ti capita in curva devi dire mamma fare dove. Ma c'è, ma ed è questione di elettronica lì. Se tu ricambi quei sensori non te la cambi più la macchina. Natalino, ho speso troppi insulti, ma adesso ti faccio il conto, 250 euro per cambiare la cinghia, sono poi le 4 gomme, sono 75 la gomma, fatti un conto, più ho cambiato la bobina quella che sta sulle candele, e sono altre 150 euro. Insomma, la macchina ha un sacco di roba, non fa, mi cambia ancora, si sfascia l'altra, quando è così diventa una spugna la macchina, perché già sono preso lo studio, e fatto, io mi giovedevo, e non posso invece così, ho pensato, con i soldi che è, mi pago le macchine e fatto. Ehi, almeno c'è la macchina nuova. Comprate la roba già, lascia perdere, non spendere più soldi, perché intanto va giusto una cosa e poi magari te se ne rompe un'altra e ti pinti di aver speso ancora soldi. Vai, comprate la roba già, almeno sei tranquillo. Guarda, quella è una macchina che a me, fatta lì, non me ne ha mai dato, tutto di colpo. Ma dopo 11 anni, io non gli ho mai fatto motore, non gli ho mai fatto, non ho fatto la fazione, non ho mai cambiato la marmitta, insomma, tutte queste cose, non le ho mai fatte, cose che in altre macchine le ho cambiate anche due volte, tre volte. E purtroppo è anziana, ci fermiamo noi quando siamo anziani, il cuore batte più piano, poi la fine si ferma, così la macchina, per lungo di qua, piano piano, comincia un difetto, comincia l'altro, si dà quando si parla un po'. Dopo cosa aspetto? Che si fermi di tutto e poi non posso andare a lavorare. Non c'è più una con la moto, cioè avrei comprato la moto e vado in moto, no? Non posso aspettare che si fermi completamente. No, già, non ne vale la pena, lascia perdere. Vai e comprate, non ci pensare due volte, guarda, vedrai che ti trovi bene. Vai e comprate la nuova direttamente e così almeno sei tranquillo, non hai più quei problemi. E che te lo fa fare? Io ripeto, l'ho tenuta lo stesso, tanti anni ce l'avevo quella Opel e andava benissimo, quando camminava era una meraviglia, era anche silenziosa, senza. E poi tu lo sai, io l'ho usata anche molto a caricare col portabagagli che avevo, eccetera eccetera. Però alla fin fine, alla terza volta, quando ho fatto spendere i soldi, per la terza volta ho fatto, boh, questi sono gli ultimi soldi che io spendo per questa macchina. Sono andato, deciso e l'ho cambiata, è inutile stare lì, tanto lo sappiamo, quando hanno una certa età le macchine e hanno un certo numero di chilometri, si sa prima o poi. Mi guarda, proprio l'altro giorno stavo parlando con mia figlia, adesso facciamo fare di nuovo la cinghia di distribuzione, gli ho detto. Però se si guasta qualcosa, già lo sai, la compriamo nuova, non se ne parla più. E ancora già cammina, e vabbè, già non so che cammina. Però la macchina nuova è un altro discorso già. Sì, però per comprare la nuova ci vuole le bimbine, e uno ci pensa tre volte. Poi non è che io sia di quelli che ci tengano la macchina nuova a cambiarla sempre, no, io la macchina mi deve durare i suoi anni, dai. Ci ho fatto così, ne sfrutto, vabbè, però non valgono nulla quando le ho perso, però ne sfrutto le macchine. se puoi percorrere 30.000 km con quell'olio lì, prenditi, no, l'olio buono, e caspita te, quello buono, ma è così, in effetti è così. No, oh, ripeto, va benissimo, perché la macchina è a posto, non ha vibrazioni, non ha niente, gli ammortizzatori sono ancora buoni, tranquillo, le gomme, poi non ne parliamo, 80 euro l'una le gomme, perché ha le gomme larghe, da 15, invece io le mie, quelle della città, sono da 14, per dirti, no, il discorso è sempre quello, però la macchina ormai ha già 160.000 km. Certo, adesso sta camminando, però stai tranquillo che al primo danno che succede di nuovo la rotamiamo, la compriamo nuova. Tanto il discorso io ho preso in questo modo già. Una volta avere soldi e non spenderli equivale a non averli, come non averli, perciò se uno ha soldi vai se la compra, non stai lì a pensarci troppe volte. Dopotutto si vive una sola volta, mio già. Ecco, già bello. Che hai soldi per pagare, cosa te ne frega poi? Non devi avere nessun timore, sai che stai lavorando, hai lo stipendio tranquillamente e ti compri quello che ti serve con i tuoi soldi, o già, e chi non vuole crepi. Quando sei anziano non te ne viene voglia di fare queste cose, ma adesso tu sei ancora giovane, fai, non stare lì a pensarci due volte, già, grazie a Dio già stai lavorando. Perciò no, io quando devo fare una cosa non sono lì a guardare ma questo costa di più o questo costa di meno, voglio sempre la cosa migliore, in modo che so che intanto quando spendo di meno spendo di più pure alla fin fine. Lì anche stasera ero in giro, sono andato a comprare un po' di materiale elettrico appunto per il locale che sto preparando per mia figlia, tipo ho interruttori magnetotermici, salvavita, prese, interruttori, mentre invece il filo ce l'avevo e il colorato ce l'avevo, per cui c'è da spendere tutti i giorni già, se vuoi fare lavori devi spendere, se no non ti metterà nemmeno. Cosa hai detto già? Ho detto l'impianto elettrico, tu te lo stai facendo. Caspita già, il mio mestiere, il mio primo mestiere, cosa chiamavo? L'elettricista. Ma vuoi scherzare? Quello che ho fatto 12 anni l'elettricista, io facevo palazzoni, io sono diventato falegname, perché è stata la struttura della ditta dove lavoravo che avevo fallito, e allora mio padre ancora era un ragazzo, e mi ha detto, io vieni con me quando stai a trovare lavoro. Sono andato lì e ci sono rimasto, e ho imparato un altro mestiere. Io mestiere ne ho tre, non uno, tre Gianni, non sono presuntuoso, tu poi mi conosci bene. Io faccio l'elettricista, l'antennista e il falegname, basta, e dico, mi sembra che lo sanno di poco. Però è poco, e poi quando uno si sa arrangiare, spende sempre bene. prendete la nuova, la berretta, guarda, questa è l'esperienza che ha voluto fare mio fratello. Non una, ma addirittura ne ha comprato due di seconda mano, uno dietro l'altro, l'altro mio fratello, ancora, il terzo, là, diciamo, dei maschi, il terzo dei maschi, il quarto figlio di casa, là. Stavo dicendo, ha comprato una prima macchina, era nuovissima, tu la vedi, era nuovissima, la prima cosa che gli si è rotta l'ha scattata dello sterzo, ha pagato mi sembra 1200 euro, una cosa del genere, 1300 per aggiustarla. La giusta e gli va a fare un altro anno, altri soldi. Cosa ha fatto? Prende la rotamata, ascoltami, andate a se ne ha comprato un'altra, sempre di seconda mano. Tanto che mai, tu la vedevi questa macchina, perché loro quando la portano da concessionario, il concessionario è furbo, gli dà una ritoccatina e te la fa sembrare nuova, però in realtà la macchina può essere devi essere molto fortunato ad incrociare in una macchina che veramente è a posto già. Devi essere fortunato, perciò se invece te la compri nuovo sei già fortunato. E questa aveva 25.000 km, se era l'originale, perché poi c'era il video, si era diciamo vista queste cose qua, ieri, che li stavano a fare chilometri, che per dire era ripreso, c'è scritto una cosa e poi vai a vedere, c'è che è capole, c'è chilometri in più di quelli che ci sono scritti nel contatto. Dammi retta, guarda che troverai bene, tanto lo lo sappiamo che la macchina vecchia prima o poi ci deve spendere altri soldi. Perché? Perché sei obbligato, perché in quel momento ti serve e allora la fai riparare. Ecco qual è il discorso già, è quello anche che frega. No, ma già ho già fatto, non ci ho ordinato la macchina, ci vogliono 2 mesi per arrivare. Perché come l'ho scelta io ho preso il tipo migliore che c'è, è quella tutta accessoriata, 1.400 cilindrata, va a gas, va a benzina, insomma. È quella più completa quella che ho preso. Appunto, hai fatto bene, è così che se ne fa. Allora, cosa stai lì a tentennare? No, non c'è. Quando arrivate a quel punto, già, ancora sei giovane e hai tutto il tempo per godertene della macchina nuova, eccetera. E poi ti serve, così almeno eviti i problemi che ti stanno dando adesso, quella che hai adesso. Va bene, dai, io vi saluto però, dai, sono già le 7.25 e sicuramente mia moglie vorrà un piccolo aiuto giù, senz'altro. Ci sentiamo già, grazie per la chiacchierata, dai, alle prossime. Saluti in casa, ci sentiamo. Ciao Natali, saluti anche a te e grazie anche a te per la chiacchierata. Dai, ascolto il finalino e dopodiché chiudo. Avanti Natali. Vai, aiuta la tua moglie, va. Grazie per la chiacchierata e buon proseguo di serata. Riprendi Gianni. Ciao Giulio, grazie per la chiacchierata. Ci sentiamo alle prossime, dai. Sì, sei a Franco, tu. Boh, ecco cosa mi sono appena fatto. Ruiaia. Questo Franco se n'è andato così, senza salutare, senza nulla. Magari è dovuto uscire in fretta e non ha fatto a tempo, capito? Su 4 trappe gli ha dato addosso, l'ha morsicato anche a periodo. dopo. E che capsula ci ha messo la Tarina? No, quella vecchia, la sua, gli ho messo. Quella che gli avevo sostituito non andava bene. E allora gli ho rimesso la vecchia, gli ho rimesso tutto a posto. Va. Lascia, io che dobbiamo mangiare. Vabbè, dai, sentiamo che mia moglie mi ha detto che dobbiamo mangiare e più è venuta gente. Alle prossime, ciao a tutte e due.